in primo piano. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino per vedere insieme a voi i temi che si affacciano sulle prime pagine, che poi vengono approfonditi sulla stampa quotidiana oggi, giovedì 14 maggio. C'è qualche varietà, la forbice delle scelte oggi sulle prime pagine dei maggiori quotidiani si allarga, perché usciamo dalle due notizie che sono state leader in questi giorni: una alla visita del Papa in Medio Oriente, l'altra le polemiche sulla sicurezza. E pur tuttavia anche oggi Repubblica e La Stampa per esempio scelgono, o altri quotidiani come Il Messaggero, scelgono ancora le code sulle polemiche sul disegno di legge sulla sicurezza, che va sempre avanti, è passato con la fiducia ieri in Parlamento, e quindi Repubblica ha un titolo di apertura: sia alle ronde, attacco dei vescovi, passa con la fiducia al decreto sicurezza, la CEI nega l'integrazione, mentre il titolo della Stampa: sicurezza sì anche alle ronde. Anche in questo caso richiamato nel catenaccio, la CEI ignorata l'integrazione, Maroni accordo con Tripoli sui clandestini. Il Messaggero titola: primo sì al reato di clandestinità, nuove critiche dei vescovi, ignorato l'obiettivo dell'integrazione. Ma dicevo, i temi si allargano. C'è il Corriere della Sera, per esempio, che dedica la sua apertura a un tema diverso, e cioè agli effetti dell'annuncio venuto ieri dai vertici della CAI, la compagnia aerea italiana che controlla la nuova Alitalia privatizzata, e il titolo del Corriere della Sera è: Alitalia declassa Malpensa. Sommario: Alemanno esulta, il sindaco di Roma; la protesta di Formigoni, il presidente della regione Lombardia: porremo il problema del monopolio. Sommario: Roma scelta come hub, Moratti, Milano ce la farà lo stesso. E il Corriere della Sera, nella nuova versione guidata da Ferruccio De Bortoli, per così dire riradica il suo elettorato milanese bardo, perché non solo è il quotidiano italiano che oggi dedica il primo sfoglio esattamente a questa vicenda di Alitalia che punta su Roma, e richiameremo in qualche modo, ma dedica anche l'editoriale poi di prima pagina a un altro aspetto della questione milanese-lombarda. Il titolo dell'editoriale firmato da Dario Di Vico è: non è l'Expo, sembra la RAI, troppa politica e poca amministrazione. Ci si riferisce alla fitta coda di polemiche che, a distanza da più di un anno, di 13 mesi dall'assegnazione a Milano dell'Expo 2015, ancora non ha visto compiere un solo passo concreto dalla società di gestione, che solo da un mese ha un nuovo vertice, che si è messo a polemizzare per la nuova sede, se a Palazzo Reale o meno. E il Corriere della Sera quindi sceglie di dedicare le sue prime pagine esattamente a questo. Vi leggo solo alcuni passaggi del fondo di Di Vico: uscendo dalla cronaca impietosa del caso Soge, la società di gestione appunto dell'Expo 2015, e nel giorno in cui Malpensa perde anche ufficialmente la sua etichetta di hub a favore di Fiumicino, l'impressione che si ricava è che si stia aprendo in Lombardia un gap tra rappresentanza e visione, tra straordinaria capacità che le forze del centrodestra hanno di interpretare gli interessi di una società attraversata da rapide trasformazioni e la traduzione di quel mandato politico in progetti di ampio respiro. Quindi è una posizione un po' critica. Pagina 2, il titolo del Corriere: Alitalia punta su Roma, Malpensa fuori gioco, con un pezzo di cronaca poi firmato da Rita Quercenda Malpensa, che dice: dai passeggeri ai negozi, fine del sogno del nord, qui volano solo i tagli. C'è però un'intervista a pagina 3 del Corriere del sindaco di Milano Moratti: ma la Moratti, non mi sento tradita, è il titolo, abbiamo investito e Milano ce la può fare. Ed è un'intervista nella quale la Moratti tenta di guardare oltre, dicendo che dal primo mese in cui Malpensa ha avuto i tagli dell'Alitalia, in realtà era già ripartita la crescita nello scalo. Ovviamente versioni molto diverse e molto meno favorevoli a questo troverete su altri quotidiani. Il Messaggero ovviamente inneggia alla scelta a favore dell'hub di Fiumicino. Trovate un titolo del taglio centrale del Messaggero di oggi: Fiumicino scalo principale, Alitalia il futuro nel Mediterraneo, Roma nel centro del sistema, la scelta della nuova compagnia, che viene poi presentata con servizi a pagina 7, quindi altro nello sfoglio del quotidiano diretto da Roberto Napoletano, con ampio spazio anche alle dichiarazioni di Alemanno e Marrazzo, una vittoria di tutti. E con una certa attenzione anche naturalmente ad ADR, la società che gestisce l'aeroporto di Roma, che naturalmente di questa scelta è felice. Vediamo Altri temi ancora sulla prima pagina. La stampa dedica anche qui un'ampia fotonotizia. La vittoria di Roma e il commento di Mario De Aglio sulla vicenda all'Italia. E ve lo richiamo perché Mario De Aglio ha un'opinione su questa vicenda che mi sembra ben scritta, molto ben scritta. Dice che in questo decisionismo per la quale il sistema, il complesso dei poteri pubblici e privati che gestiscono gli aeroporti di Roma e del Lazio si è adoperato per convincere i vertici CAI a questa assegnazione dell'hub su Fiumicino, in questo decisionismo Roma si è rivelata piuttosto milanese, scrive Mario De Aglio sulla stampa, mentre Milano si è scoperta romana. Nel corso degli ultimi mesi infatti Roma si è nel complesso dimostrata imprenditoriale, i poteri locali si sono evidentemente dati da fare perché si arrivasse alla decisione annunciata ieri all'Italia, e quindi c'è un giudizio positivo di De Aglio su questo, mentre poi la fine del suo editoriale dice che la sconfitta di Malpensa, per molti versi prevista, rilancia la possibilità che l'Italia settentrionale provi a organizzarsi in proprio. La stampa dedica il suo editoriale a un articolo di Marco Belpoliti, Politica a colpi di foto, e lo richiamo per poi andare a Repubblica. In questo editoriale di Marco Belpoliti si analizzano alcune recenti iniziative, come quella varata da un quotidiano milanese che sta uscendo in questi giorni con un album fotografico che ricostruisce la parabola di Berlusconi. Il quotidiano è Libero, e nel prosieguo dell'editoriale della prima pagina, Politica colpi di foto di Marco Belpoliti, a pagina 33 della stampa trovate un commento su iniziative come queste, e che fanno seguito poi naturalmente a le interviste esclusive uscite su giornali come Chi e Novella 2000 sulla vicenda di Noemi e di Casoria. Ecco, il giudizio di Belpoliti è questo: il narcisismo traboccante del Presidente del Consiglio non è un segreto per nessuno, così come la sua volontà di presentarsi come uno specchio degli italiani. Gli riesce sui giornali di famiglia, ci si riferisce al Libero e al Giornale, anche se Libero non è la sua famiglia. Gli riesce sui giornali di famiglia, scrive Belpoliti, dove la concorrenza non esiste. Ma Berlusconi sembra anche capace del contrario, cioè fare degli italiani il proprio personale specchio, la superficie riflettente in cui si guarda. Un miracolo che per durare ha bisogno di massicce dosi di incantamento. L'archivio fotografico accumulato nei decenni e ora sapientemente usato lo aiuta. Gli anni passano, ma come nel racconto di Wilde che apre il protagonista Dorian Gray, lui è sempre bello e giovane nei romanzi, ora anche nei fotoromanzi, finché si specchiano in Photoshop. Questo editoriale mi serve per arrivare molto rapidamente a segnalarvi il paginone, pagine fitte, corpo molto piccolo, pagina 8 e 9, che Repubblica, quotidiano diretto di Ezio Mauro, dedica a un tema, a questo stesso tema in realtà, alle code polemiche, del rapporto tra Berlusconi e un rapporto non chiarito con la famiglia della ragazza di Casoria, Noemi e così via. Oggi trovate in prima pagina su Repubblica le 10 domande mai poste al Cavaliere, Giuseppe D'Avanzo, il pubblico e il privato di Berlusconi, e pagina 8 e 9. Parafrasando un po' lo stile con cui il Giornale e il quotidiano di Giordano invece martella tutti i giorni, vedremo anche oggi, Di Pietro, con una fittissima serie di domande a cui Di Pietro non risponde mai, di solito querela, oggi Repubblica fa lo stesso. Le 10 domande che rivolgiamo a Silvio Berlusconi, domande di cui vi risparmio il riccamente documentato corredo di argomentazioni a sostegno di ciascuna, ma insomma sono: quando e come Berlusconi ha conosciuto il padre di Noemi, quante volte sono incontrati, dove, in quale occasioni, eccetera eccetera, con questo stile un po' giudiziario che del resto rappresenta la specializzazione del collega D'Avanzo, e con cui il quotidiano Repubblica incalza il Presidente del Consiglio. Repubblica è oggi tra i quotidiani italiani quello che dà maggior rilievo nel suo sfoglio al proseguo della visita di Benedetto XVI in Palestina e in Israele. Questo fatto che abbia detto solo Palestina la dice lunga sul condizionamento al quale siamo soggetti. Richiamo a pagina 2 di Repubblica una bella intervista allo scrittore Avram Joshua, che dice: serve un'intesa sui confini, aspettiamo le mosse di Obama, che forse dà anche nel corpo della sua intervista però uno dei giudizi più critici che si siano letti fino a questo momento su il fatto che Giovanni Paolo II suscitò più entusiasmi di Benedetto XVI. proseguendo ancora nella segnalazione dei temi, questa volta un pochino più politici, vediamo nel seguito del voto sulla fiducia sulla sicurezza. Repubblica attacca, pagina 7, il sindaco di Torino Chiamparino, Chiamparino pro linea dura, e Repubblica è quel quotidiano italiano che dedica più spazio alla replica che al sindaco di Torino è stata data ieri dal capogruppo del PD alla Camera, Antonello Soro, accusandolo insomma di slealtà nei confronti del centrosinistra, che è molto critico, è stato molto critico in aula su questo. Trovate poi sempre su questo tema un'intervista di Cacciari, che in questo momento però si sta sottraendo, ve la segnalerò poi. Proseguendo, scusatemi un secondo, c'è un po' di pasticcio in questo momento. Ecco. Allora, altro aspetto della politica, della prima del Foglio. Si parla del presidente della Camera, del suo incontro con le associazioni gay. Così Fini conferma l'associazione gay che sui loro diritti darà battaglia. Resta il no al matrimonio, ma Paola Concia del PD dichiara finalmente: ecco la destra laica ed europea. Arcigay, un colloquio molto importante. Dal Foglio segnalo l'inizio di questa inchiesta in più puntate che il collega Giulio Meotti inizia a pubblicare da oggi nella Caspa di Rotterdam, il titolo in prima pagina, ed è un approfondimento sui problemi con cui è alle prese la società multiculturale in Olanda, la città e il paese di fortuna dal relativo assassinio. Ancora dalla prima del Foglio: perché la Commissione europea è in imbarazzo di fronte ai respingimenti tra Tripoli, Roma e Bruxelles. Presidente della Commissione europea Barroso: non c'è risposta facile. Si tratta naturalmente delle polemiche sul diritto o meno al respingimento fuori dalle acque territoriali del nostro paese degli immigrati non in regola. Continuiamo però a vedere, svariando sugli altri quotidiani, ancora altre questioni di politica nazionale. Il Giornale, come avevo preannunciato, dedica la sua apertura all'ennesima puntata degli attacchi a Di Pietro. Ampia fotonotizia: Di Pietro rispondi, perché gestisce da solo i rimborsi elettorali, come mai tanti litigi nel partito per i soldi, aveva annunciato un nuovo statuto, dov'è, con Ampio editoriale in prima che continua a pagina 5 di Filippo Facci, collega che è lo specialista del Giornale nell'approfondimento di Di Pietro, la dinastia nordcoreana di Tonino. Il titolo d'apertura del Giornale è invece dedicato all'ennesimo virgolettato di Berlusconi sul tema della sicurezza: i rifugiati politici identificateli in Libia. Infatti questi sono, trovate a pagina 2 e 3 del Giornale, l'approfondimento sulla sicurezza con titoli come sui clandestini, Italia in linea con le regole dell'Unione Europea, mentre pagina 4 e 5 è la doppia pagina fitta di sviluppi delle domande che restano senza risposta avanzate anche oggi dal Giornale a Di Pietro. Partito, rimborsi e statuto, ora Di Pietro ci risponda. Il Giornale poi, diciamo, piazza qualche batteria in vista delle prossime elezioni europee. Pagina 6, approfondimenti dedicati a Padova e a Venezia, con titoli come Venezia, Marghera, tirare di svolta, tesserati CGIL votano destra, Padova, dal manifesto dello sceriffo è sparito il simbolo del PD. Naturalmente lo sceriffo è il sindaco Flavio Zanonato, già tre volte sindaco di Padova, che ora punta al quarto mandato. Ma dal Giornale segnalo anche, svariando un po' sul tema, una bella interessante pagina firmata da Vittorio Macioce, inviato a Mediugorie, inviato dal Giornale a Mediugorie, che descrive un pochino le singolarità del pellegrinaggio a Mediugorie, che è un fenomeno che io prendo molto sul serio. Io ho molto rispetto per chi ha fede mariana, e vi invito a leggere questo articolo con degli approfondimenti interessanti su come alcuni personaggi, per esempio un ex campione dello sport come Mikhailovic o un ex giornalista come Brosio, abbiano nei confronti della Madonna di Mediugorje. Torniamo in questo caso al Corriere della Sera. Il Corriere della Sera per le pagine di Politica Nazionale, trovate a pagina 13 un approfondimento dedicato a Firenze. Firenze, PD spaccato, Domenici, l'ex sindaco, poi dimissionario per polemica, si infuria e minaccia lo strappo. Pistelli, non lo voto, la replica Franceschini con me. Sempre su questa pagina trovate invece un approfondimento che è l'unico in tutta la stampa quotidiana italiana dedicato a Veronica Lario, lacrime e accuse, lo sfogo con le amiche, vogliono farmi passare per inaffidabile, è un articolo firmato dalla collega Angela Frenda. Altro tema della politica italiana, le dichiarazioni polemiche rilasciate ieri dal ministro Brunetta, che intervenendo al forum della pubblica amministrazione ha dichiarato non so se sono in carica, rivelando che i nemici del decreto di attuazione del suo disegno di riforma del pubblico impiego sono nel governo. E il quotidiano che dà più rilievo oggi a queste dichiarazioni polemiche è senza dubbio il Sole 24 Ore, che affaccia nel taglio centrale della sua prima pagina il tema: Brunetta rimette il mandato, subito la riforma o lascio. E questo mi consente di arrivare al Sole 24 Ore di oggi e a segnalare un po' di temi economici dalle pagine dei diversi quotidiani. Il Sole 24 Ore, il quotidiano diretto da Gianni Riotta, apre con gli echi e gli approfondimenti dei dati economici americani ieri, che hanno gelato le borse. I consumi USA gelano le borse, il titolo d'apertura. Gaetan, il segretario del Tesoro, rassicura: il sistema finanziario sta già guarendo. Mentre l'editoriale in prima pagina di Alberto Rioli è dedicato a Marco Biagi e i nemici del lavoro, e in occasione di una posizione ieri di una targa dedicata al giuslavorista caduto vittima, come D'Antona e altri, del piombo assassino delle Brigate Rosse. Il richiamo, il rilievo, la vicenda Brunetta l'ho già segnalato. Altre due segnalazioni della prima pagina del Sole. Nel taglio basso il rinvio a un'inchiesta all'interno molto interessante di un giovane collega che si sta veramente facendo onore in questi anni: come sono verdi le nuove tute blu, il voto operaio dalla sinistra a Lega e PDL. E l'inchiesta, che trovate poi a pagina 17 del Sole 24 Ore, e la firma Marco Alfieri, già autore di un libro su Il problema del Nord, edito da Marsilia. Da Marx a Bossi, nuovi operai, troppe tasse, troppi immigrati, a Pontedera le tute blu guardano a Lega e PDL, e il titolo dell'inchiesta. Altro tema in prima, taglio alto a destra, il Sole 24 Ore: Telecom, lo sviluppo della banda larga, il piano Caio, rete Telecom separata con il controllo CDP. Carmine Fotina fa nel secondo fascicolo del Sole 24 Ore un approfondimento appunto su il piano Caio, quello per l'implementazione delle reti di nuova generazione, in cui si riaffaccia l'ipotesi quindi dello scorporo della rete con assunzione dei diritti proprietari da parte del pubblico, cioè della Cassa Depositi e Prestiti. Un editoriale ancora del Sole 24 Ore, pagina 14, Lab Fiumicino e Malpensa Futura, è un editoriale, diciamo, in cui il Sole non esprime posizioni nella guerra che divide Milano e Roma, augurandosi invece che Malpensa sappia trovare in questo una strada autonoma. E poi vi segnalo ancora nella pagina dei commenti inchiesti Gianfranco Fabi, che commenta un bel libro Dopo la società aperta, edito da Armando ed editore, è un libro dedicato a Popper e la crisi, una lezione sul mercato e libertà. Sugli altri quotidiani alcuni temi economici ancora. Il Corriere della Sera si sente lì la mano di De Bortolo. In prima pagina Giacomo Ferrari segnala un articolo che trovate poi a pagina 5 sui titoli del debito pubblico, quelli indicizzati, che oggi costituiscono un ancoraggio per il risparmio più fedeli di altri nel premiare i contribuenti, i CCT, perché naturalmente sono quelli indicizzati. E ancora Il Riformista, con la sua apertura di oggi firmata da Alberto Mingardi, che riconosce a Tremonti i suoi meriti per essere molto prudente. 1741 miliardi di debiti è il titolo della fotonotizia in prima con cui Il Riformista apre oggi la sua edizione. Trovate poi l'articolo di Mingardi a pagina 4, in cui dice: forse ha ragione Giulio, poca spesa e niente sprechi. Ecco, siamo arrivati anche oggi al tempo che finisce, e quindi non mi resta che darvi appuntamento a domani.